Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini per una nuova puntata di Respiro. Pochi giorni fa è stato inaugurato a Gaggiano, alle porte di Milano, un nuovo supermercato della catena Di Meglio, un'insegna nazionale afferente al gruppo Interdis. Direte, embè, non sarà certo l'unico supermercato inaugurato in Italia negli ultimi tempi, ed è vero, ma è certo l'unico ad aver adottato un impianto di climatizzazione interamente basato sul sistema FEE, fattore energetico esponenziale. Un sistema di cui abbiamo già parlato proprio qui a Respiro in passato, un sistema vincitore del premio all'innovazione amica dell'ambiente 2008 di Legambiente. Finora però ne abbiamo parlato per impianti più piccoli o comunque per spiegare di cosa si trattava. Oggi ne parliamo per un grande impianto capace di gestire riscaldamento e condizionamento di un supermercato, risparmiando energia ed emissioni di CO2. A Gaggiano è andata per noi Natascia Gargano. Siamo all'inaugurazione del store Di Meglio di Gaggiano, che ha un sistema di climatizzazione innovativo. Ce lo spiega il suo ideatore Marino Piasentà. Come funziona il sistema FEE? È un sistema di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria che non usa più nessun tipo di combustione chimica. Questo l'avevamo già fatto in altri posti. Di ancora ulteriormente innovativo c'è il fatto che stiamo procedendo a passi da gigante verso la soluzione finale, che sarà il sistema addirittura dove noi ci produciamo da noi stessi la corrente elettrica per sostenere i nostri sistemi, per cui il sistema no compteur, senza contatore. Per il momento, diciamo, viene eliminato la caldaia a gas metano. Sì. Come funziona? Come riscaldate e come climatizzate l'ambiente? Allora, è un pompa di calore normalissimo in realtà, con un sistema di mediazione, che è il sistema FEE vero e proprio, che è in grado di raccogliere l'energia da qualunque provenienza. In particolare in un supermercato noi captiamo il calore di processo che proviene dai frigoriferi, ed è un pozzo di petrolio, cioè una fonte energetica inesauribile, ma che noi stiamo pagando per smaltire, per cui è una fonte energetica che vale doppio. Poi quando viene a mancare questa fonte energetica utilizziamo il sole con dei pannelli solari idrotermici. Quando vengono a mancare questi utilizziamo anche l'aria, fino a che le temperature lo consentono, perché il grosso problema dei pompa di calore è che quando fa freddo non funzionano più, perché l'aria contiene acqua, l'acqua si ghiaccia sull'evaporatore che è all'esterno e crea problemi. Si interviene mettendo resistenze, inventandosi cose, ma a quel punto non è più un pompa di calore, è un sistema di riscaldamento elettrico e non trasferisce più energia ma ne consuma. Invece noi abbiamo scelto di mantenerlo pompa di calore, è vero, noi prendiamo veramente energia dalle fonti rinnovabili, aria, acqua, sole e soprattutto il calore di processo che è fantastico perché è un pozzo di petrolio. In sostanza si recupera un'energia al calore di scarto che andrebbe perso, ma questo funziona a qualsiasi condizione climatica, stagionale, quindi sia d'inverno che d'estate? Sia d'inverno che d'estate. D'estate noi utilizziamo l'acqua o l'aria per ridurre l'impatto della condensazione e diminuire il consumo di corrente elettrica. D'inverno utilizziamo il calore di processo per buttarlo direttamente a fare riscaldamento. In totale non inquiniamo più del tutto perché usiamo solo energia elettrica e anche poca. Una volta che abbiamo ridotto i consumi, a questo punto è facile rendere l'energia elettrica democratica, cioè possesso di ogni singola persona, e toglierla anche questa dalla grande distribuzione, dai trust, no? E questo si farà con i pannelli solari di nuova generazione, sono bifunzionali, hanno prestazioni un 30% più alte e noi li raffreddiamo e li manteniamo in temperatura in modo che producano il massimo di corrente elettrica delle loro capacità per tutto l'anno e possiamo farlo solo se collegate appunto a questo sistema, che è un sistema integrato, ecco, un sistema integrato di molte componenti dove tutte confluiscono a fare il bene. Del resto, se riuscissimo a portare a termine il nostro progetto, io credo che risolveremo il problema delle grandi città, dell'inquinamento, e magari, visto che siamo tutte aziende italiane, si pensa anche che magari con un po' d'aiuto si possa anche uscire dalla crisi, insomma, lavorando e facendo bene, rendendo il nostro paese autonomo energeticamente. Ecco, in questo senso lei parlava di terza rivoluzione industriale, cosa intendeva? La terza grande rivoluzione industriale è quella che viene dopo la rivoluzione della meccanica, dopo quella della comunicazione che passa anche attraverso i computer, e oggi ci troviamo a fare la rivoluzione energetica, e questa è la nuova frontiera, è la nuova rivoluzione dei giorni nostri ed è puramente tecnologica. Noi in Italia, io lavoro con molte aziende, adesso non voglio fare un nome solo perché dovrei farne 10, tutte aziende italiane, tutti che lavoriamo assieme, amici, collaboriamo, con in animo di offrire questa soluzione per essere copiati, per essere seguiti, non per farla noi, non è un fatto economico. Ecco. Parlando di consumi, quanto si risparmia in bolletta con un sistema FE in una casa o in un supermercato? Allora, parlando delle esperienze fatte e parlando di condizionamento, riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, arriviamo anche all'80%. Il sistema FE può essere applicato solo sul nuovo oppure riconvertite anche vecchi impianti? E come funziona con il sistema non mi pagate ma mi ripago da solo con il risparmio in bolletta? Allora, prima di tutto funziona perché funziona economicamente col risparmio, cioè si risparmia tanto. Allora, noi siamo su posti grandi dove un supermercato, un centro commerciale, pochi lo sanno, ma è un ambiente fortemente energivoro. Io ho visto bollette di 100.000 euro l'anno, ma su centri commerciali ho visto bollette di 500.000 euro l'anno. Allora è chiaro che sono tantissimi soldi. Allora noi andiamo lì, vediamo come è fatto l'impianto, quello esistente, salviamo tutto il possibile, interveniamo il meno possibile, ma però cambiamo lo schema di impianto. Colleghiamo per esempio il calore prodotto dai sistemi frigoriferi, noi ce lo andiamo a prendere e lo useremo poi per fare riscaldamento invernale. Eliminiamo la caldaia, eliminare solo la caldaia, che pochi sanno, pochi stanno attenti. Guardate che la caldaia consuma anche elettricità, vuol dire eliminare il gas, eliminare il suo consumo elettrico, e magari solo col suo consumo elettrico già siamo arrivati a fare il nostro riscaldamento. E lì sono tanti. C'è tanto da fare, tantissimo. Quindi sono interventi che si possono anche fare sull'esistente, non solo sul nuovo. Si fanno proprio sull'esistente, è bello farli sull'esistente, compressori vecchi, rovinati, cose brutte che non vanno più, noi le mettiamo a posto. Così la maggior parte del nostro lavoro è così. Invece per quanto riguarda la manutenzione? Per quanto riguarda la manutenzione è un pompa di calore normalissimo, noi siamo frigoristi, facciamo questo. Io ho 30 anni che faccio questo lavoro, per me la manutenzione è normale. Siamo con Renato Viale, presidente della Viale SPA, proprietaria del supermercato di Gaggiano, e gli chiediamo perché fare un investimento di questo tipo rispetto a invece utilizzare un impianto di climatizzazione e riscaldamento tradizionale. Ma guarda, intanto abbiamo avuto la sorpresa che in ogni caso addirittura non spendiamo di più rispetto ad un impianto tradizionale. E invece i calcoli che abbiamo fatto e dalle esperienze che il tecnico e il progettista ha già avuto in parte, dovremmo risparmiare almeno un 30% del costo dei consumi. Tenga poi conto, come le avrà già detto, che non abbiamo un livello di CO2 a livello zero perché non utilizziamo gas e combustione, ma utilizziamo energia elettrica e la corrente, diciamo, che recuperiamo, cioè l'energia, il freddo e tutta l'energia che recuperiamo dagli impianti frigoriferi all'interno della struttura, quindi anche dal punto di vista ambientale riteniamo questo un plus che dà, diciamo, che segue un po' l'indicazione dei nostri supermercati, dei nostri prodotti di meglio, che vogliono essere prodotti di una certa qualità e che rispettano l'ambiente, quindi anche la struttura che li contiene vogliamo che rispetti l'ambiente. I costi di manutenzione invece sono quelli della manutenzione tradizionale? Ma direi che lì addirittura dovremmo risparmiare, perché sono molto più semplici. È una tecnica che ha semplificato un po' tutta la struttura relativa appunto al condizionamento e al riscaldamento del locale stesso, per cui ci auguriamo che il tutto ci dia la soddisfazione che abbiamo immaginato insieme al costruttore. Avete utilizzato questi sistemi FE anche su altri vostri punti vendita o è il primo? No, questo è il primo punto vendita, e se qui ritroveremo ciò che le ho detto, nei limiti accettabili ovviamente, lo potremo esternare anche portare in tutti gli altri nostri supermercati. Una attenzione ecologica per l'ambiente che si vede anche dal sistema di illuminazione che avete certo, scelto. Certo, anche l'illuminazione ovviamente lì è un percorso che ormai si fanno tutti perché sappiamo che si sta potendo utilizzare dei nuovi prodotti che hanno poco consumo, quindi lampade a LED eccetera, quindi quello ovviamente abbiamo ricercato i materiali più adatti e più consoni al risparmio e all'efficienza. Il risparmio è quantificato? Mediamente pensiamo di risparmiare tra tutto un 30% dei costi di gestione che avremmo avuto in una tecnologia tradizionale. Bene, grazie a Natasha Gargano, grazie ai suoi ospiti, Marino Piasentà di Sistema Fe, lo trovate su internet per ulteriori informazioni, grazie a Renato Viale, presidente della Viale SPA, proprietaria dei supermercati Di Meglio. E restiamo in tema, tutto sommato. Ascoltate queste interviste, pare di capire che tutto sommato vale la pena. I costi di questi investimenti alla lunga sono inferiori ai benefici sia economici che ambientali. Vale per questa azienda e ci auguriamo che i dati confermino le aspettative, ma vale anche probabilmente a livello più generale. Un livello di politiche e interventi per la mitigazione, o meglio lo stop ai cambiamenti climatici. Si sente però spesso dire che i costi per attuare le politiche, ad esempio quelle europee, ma anche quelle italiane, sono costi esuberanti, eccessivi, impossibili da affrontare. Su questo tema si sono confrontati illustri economisti e scienziati al Festival dell'Economia di Trento, dove il collega Simone Spezia ha intervistato Marzio Galeotti, professore ordinario di Economia dell'Ambiente e dell'Energia, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano. I costi di un'azione preventiva contro il cambiamento climatico sono eccessivi? Questa è la domanda di Simone Spezia. Inevitabilmente non puoi dire né che sono troppo alti né che sono troppo bassi, però devo dire, un po' per deformazione professionale, la necessità di un intervento credo che sia indiscutibile, e bisogna cercare di non dimenticare che non esistono solo azioni di mitigazione ma anche di adattamento. Uno degli aspetti positivi, a mio modo di vedere, del vertice di Copenaghen, tra le grandi difficoltà e il naufragio generale, è stato quello di portare all'attenzione del dibattito, del negoziato, per la prima volta in maniera netta anche il discorso delle politiche di adattamento, con ovviamente quello che comporta, cioè sforzi finanziari, trasferimenti finanziari dal nord al sud del mondo, eccetera. Senza quello, pensare solo a di risolvere il problema con la mitigazione non è sufficiente. Ha l'impressione che la vicenda BP dia una bella scossa su questi temi? Ma guardi, sì, in un certo senso, soprattutto all'interno degli Stati Uniti, anche se la cosa andrebbe chiesta forse a un cittadino, un esperto di quel paese, sicuramente ha rallentato, diciamo, le pressioni di coloro che volevano estendere le esplorazioni del petrolio con conseguente impatto ambientale, ha rafforzato un po' di più la posizione degli ambientalisti. Dal punto di vista di quello che succede, diciamo, nel Senato statunitense e quindi per le sorti, diciamo, del problema generale del climate change e del negoziato, credo che questo abbia un'influenza transitoria. In realtà le questioni rilevanti sono questioni che restano lì e sono comunque importanti, e cioè le scelte che tu fai relativamente alle pressioni della lobby del carbone, per esempio, di cui anche appunto si è fatto cenno in questo dibattito, l'apertura di Obama al nucleare per cercare di trovare un compromesso. Sicuramente, diciamo, i supporter, diciamo, i petrolieri staranno un po' tranquilli. Bene, questa è la risposta del professor Marzio Galeotti, come dicevamo, professore ordinario di Economia dell'Ambiente e dell'Energia all'Università degli Studi di Milano. È tutto per questa puntata di Respiro, vi do appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Vi ricordo che per scriverci potete farlo all'indirizzo respiro@radio24.it. Per riascoltarci invece la pagina di Respiro è su il sito internet di Radio 24, come quella di tutti i programmi, e quindi l'indirizzo è www.radio24.it. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto con la nostra radio.